detto, le ha fatto una pena questa ragazza, dice, mi ha raccontato tanti particolari che non si possono dire, ma cose, mamma mia, una ragazzina. E non so, lavorava lì a Cristallo, mi pare. No, da cosa? Dalla pasticceria, bah, non il Cristallo. La pasticceria, bah, come si chiama, Acciaro. Ehi, Acciaro, ho saputo tanti particolari di quella cosa lì, mi ha raccontato, mamma mia. Mi immagino solo quando c'è una figlia tua e ti scopri che una cosa del genere, il dolore, la tragedia, ma già ne esce a pizzo, chi l'ha ammazzata già viene fuori, sono sicuro io già. Hanno sospettato diverse persone, tra cui, vabbè, tante persone hanno sospettato, però di sicuro non sanno niente. E lei era uscita con delle persone che l'hanno vista in giro. Già si sa, la polizia indaga, poi alla fine si avverranno a sappello. Così io c'ho un amico mio che è morto, poverino, lavorava in officina, grandissima persona, carabiniere, questo era carabiniere a Oristano, c'era da pochi anni di lì, con la fidanzata di Oristano, tutti e due morti in macchina, sparati alla nuca da dietro, con qualche amico, non hanno mai scoperto chi li abbia ammazzati, perché chi li ha ammazzati è sicuramente un amico che sta dentro la macchina, seduto tranquillo. Lui tra l'altro non era uno stupido, uno che si difendeva pure, eppure non sono mai riuscito a scoprire la madre, quando ogni tanto riusciva anche a chi l'ha visto, cose del genere, e cercare di, in tante trasmissioni uscita sul giornale, sempre dice il mio desiderio sapere chi l'ha ammazzato, così almeno lo so, non per vendicamento, sapere e chiedergli perché l'ha ammazzato. Secondo me è roba di gelosia di qualcuno che magari era una bellissima coppia, giovani, sui 24 anni, 25, dai. Presi tutti e due da dietro, a testa, alla nuca, morti. Ma tu pensi che fosse seduto in macchina con loro, gli ha mandato la spada vicino? Certo, se erano dentro la macchina, li hanno trovati dentro la macchina, qualche amico loro, sicuramente tutto. Vai, ha detto, vedi, da un passaggio, le solite cose, tutti e due sparati alla nuca, non c'è né colluttazione né niente. Questo è successo, quanti anni c'ho, stiamo parlando, ci avrò avuto 20 anni io, sarà una quarantina, no, vabbè, che cazzo, 40, una trentina d'anni fa sarà successo questo. Non ti fare più giovane, dai. Io sto andando a memoria, più o meno 30, 32, una cosa del genere. È stato un dispiacere grande, poi la madre dal giorno è andata in lutto, che non ne poteva, cioè ha avuto una tragedia con la famiglia lì, cioè quando ti ammazzano un figlio senza motivo, un ragazzo pieno di vita, ben voluto da tutti, simpatico, però non era di quei ragazzi antipatici, rompisco, questa era una brava persona, simpatico, non era uno che si faceva, cioè si toglieva la mosca dal naso, nel senso forte fisicamente, atletico, tutto un ragazzo d'oro, non gli potevi dire niente di brutto, per dire che girava cose strane, era un ragazzo lavoratore, tutto qua, poi come ha finito di andare di lavorare a noi, se n'è andato nell'arma, è durato durante 2 anni ammazzato. Ah, lavorava da te? Ha lavorato tanti anni, ci conoscevamo da bambini, da quando siamo nati, perché era vicino a mia nonna, lui è nato, tutta la famiglia, tutti i parenti, tutti quanti, e quello è stato un dispiacere grande, e nessuno è mai riuscito a capire, l'hanno archiviato il caso, perché in assoluto sono di quei casi che fanno sempre controlli, controlli, controlli, chissà Garera, se non era qualche collega suo, non si sa, sa di fatto che non l'hanno mai trovato, come questa di Alina Cossu, ma Alina Cossu secondo me la trova. Diciamo che a Bordotto se la gente se sa la cosa la dice, però è difficile, che l'hanno vista con certe persone, addirittura li hanno fermati eccetera, poi li hanno liberati di nuovo perché non avevano prove. E il problema è che hanno inquinato le prove di lì, mi hanno detto dei particolari, hanno fatto quando l'hanno portata fuori, non sono intervenuti come dovevano intervenire. Poi col discorso del DNA già si ritrova, solo che prima il DNA non c'era. Se fosse successo adesso, in pochi giorni o pochi mesi avrebbero risolto il caso. Purtroppo adesso il cadavere, chissà come cacchio sarà, in che composizione sarà, non lo possono riesumare perché non ci sono delle prove verso qualcuno, se no a vedere se lo trovano. Violentata e poi ha buttata nuda così. Guarda, per come ho capito io non l'hanno violentata, perché c'aveva il ciclo, a me mi hanno detto. Poi io non dico altri particolari perché non so, però sono cose raccontate, per quanto ne so io non ero presente, non la conosco, non so niente. Però mi hanno detto che questa ragazza forse non l'hanno violentata. Ho visto qualcosa di strano, non lo so io, non me... sempre per sentito dire, già. Vabbè, voci di poco, ma avanti vai. Sì, io sono qua. Niente, queste purtroppo sono cose brutte che non fanno niente piacere. Certo, anche perché c'è un bambino, non dobbiamo fare certe cose. Avanti, Riccardo. Non ti ho capito, Riccardo, cosa hai detto? Tanti anni fa, non mi ricordo che anno era, ma è tanti anni, cioè. Era una volta che a cosa, che l'ha visto lo spazio. Comunque questo dice che è caduto dagli scudi, chissà di se è caduto, 40 anni. Ed era solo ed era nudo, caduto dagli scudi. Vabbè, la gente poi dice tante cose, vivi, ognuno di lassù e ci ricamano, poi bisogna essere nudo anche. Gianni, Mari era vestito e rovesciato arrotolato, poi Leo non lo sbatteva, alla fine se c'è stato qualche ora ha già perso tutti i vestiti, se c'è mare mosso. Vabbè, ma quando mai questo qua si è avventurato a cadere giù, o stava pescando, stava facendo qualcosa. Già, non so niente, l'ho letto, me l'avete detto voi, adesso ho letto un mezzo articolo su internet, TV. Ma mica è pericoloso dire già, tu sei andato tu verso le roccette bianche, io quelle zone le conosco benissimo, ma bene bene, perché ci andavo a pescare tutto, pesca su bar, sono le metà, però ho visto che ci sono stati dei cambiamenti, le correnti ci sono, dei pezzi franati, lì è tutto friabile, magari ne farà d'un pezzo, cosa vuoi che ne sei che ti dica? Tutta quella zona lì è pericolante. Io lì Robert andavo a fare pesca su barche, facevo strage di polpi di secchi. Sì, già lo so, e io ci salvo tutto l'estate, di là a me, tutta quella zona lì da sempre, anche prima di andare di lì, ci siamo nati noi in quella zona di mare, però ti posso dire è molto pericoloso e non è segnalato, perché io sono andato verso ottobre così e ho visto dei lavoretti che hanno fatto, gente che si è messa a scavare cose, ho visto un piazzaletto che hanno fatto una specie di piattaforma tutta scavata, non so chi cacchio l'ha autorizzato a farli, ci sono dei buchi forse per mettere tipo tendoni o cose. Non lo so, ho visto un sacco di cose che non mi sono piaciute, ho detto qua secondo cosa tu che ci frana tutto e ci cade giù. Dimmi. No, capito, lo stai preparando il camper? E tu perché la tipica che io rimango in casa, hai capito? Io sono già libero da ieri, vabbè oggi non sono uscito, non sono saltato da nessuna parte, però per me è come che sia già finita, non me ne ha fatti nulla, l'ho già detto dall'altro giorno, poi si arrangiano loro. Ok, no, io il campo l'ho messo in moto, quello più grande, dai, proprio più c'ero da un po' di mesi, un paio di mesi che era fermo, l'ho fatto mettere in moto per caricare le batterie e sto finendo l'altro, quello da battaglia diciamo, quello più piccolo. Ah, ok, una domanda, Mario, tu l'ascolti a Riccardo? No, non lo copio, comunque stavo pensando adesso quando finirà questo problema, io che sono amante del mare, sono preoccupato come andrà a finire lì quando saremo in spiaggia. No, sarà tutta una presa per i fondelli, dai. Vedrai che questo finirà tutto senza ragionare, vedrai che poi finisce tutto. Questa è tutta una cosa pilotata politicamente ed altri motivi economici, dai, non diciamo altro, dai, perché se no diciamo che siamo complottisti e cose del genere. Ne riparleremo, cosa succede. Io sono sicuro che è già tutto finito, almeno il grosso del problema adesso ai primi caldi finisce tutto. Ok, ripresitela tutta quanta, sempre la frequenza, stiamo parlando. Claudio, avanti. Cosa hai detto già? No, l'ho saputo in diretta come te da Gianni. Servizio ANSA del baracchino del canale 10, ANSA. Stavi dicendo già. non mi ricordo più adesso che sono limpiato. E stavo di che cosa stavamo parlando? Ah, del coronavirus. E niente, ricordiamoci che siamo forse noi che stiamo meglio adesso, però ci sono delle nazioni che ancora stanno andando male, tipo l'America e altre nazioni che stanno battendo le pene dell'inferno anche loro. Vabbè, dai. In America ci sono altri motivi pure, non è coso. È stata gestita male dall'inizio la situazione, non diamo la colpa alla Cina, la Cina non ha nessun interesse a fare quello che viene condannata e accusata, non ha nessun interesse perché perderebbe troppo, probabilmente perderebbe più di qualunque stato del mondo, considerando che l'economia, l'esportazione cinese è numero uno al mondo, straccia tutti, e se si finisce l'esportazione finisce tutto per la Cina. Le più grandi industrie del mondo di elettronica sono tutte in Cina, sono di tutte industrie americane, tedesche, qualche industria italiana, di tutto di più c'è quello. Questa è una cosa pilotata, come si dice, speriamo che non sia vero, ma io secondo me è vero, pilotata dai signori industrie farmaceutiche che sono comandate dai signori dei soldi. Non facciamo i nomi, ma sappiamo chi è l'uomo più ricco del mondo e immaginiamo tutto il resto. È tutta una cosa pilotata, i vaccini vogliono lavorare sui vaccini. Se volete un consiglio, non fatevi il vaccino, tanto il vaccino è inutile. Questo virus scomparirà e quando sarà pronto il vaccino ti iniettano questo virus, e se ti pigli un'influenza qualsiasi c'è il rischio che ti prendi delle conseguenze molto più gravi, per cui lasciate perdere il vaccino, è già superato quello lì. Ci vuole una terapia diversa dal vaccino, come stanno dicendo questa col plasma, che dice che dà degli effetti benefici utilizzando le persone sane che sono entrate sane, che sono state contagiate. Il plasma di queste persone dice che nell'arco di 24-48 ore ha dato dei benefici veramente importanti. Il vaccino è una presa per il fondo per fare ingrassare le industrie farmaceutiche che stavano andando male per l'economia, nel senso non riuscivano ad avere più soldi che avevano negli anni passati, per cui stanno facendo questo spavento generale nel mondo e costringeranno agli imbecilli che se lo faranno di farsi il vaccino. Scusate, no, assolutamente no, il vaccino viene iniettato, c'è il virus in una forma meno virulenta di questo corona, che l'hanno già diciamo riconosciuto, se lo iniettano insieme ad altre particelle di altre sostanze che la maggior parte sono assolutamente pericolose, per cui lasciamo perdere, e quando te le iniettano secondo lui tu diventi immune di un vaccino che è già andato via, cioè di una malattia che è già passata. È come che ti fa il vaccino all'influenza a gennaio, cioè a gennaio, a giugno, e l'influenza è già andata via, quel virus, ce ne sarà un altro che ti combatterà. Tu quando prendi un vaccino il corpo va in movimento, diciamo gli anticorpi si mettono a lavorare, a lottare contro questo vaccino e farti l'immunità. Se tu stai lottando con questo vaccino per cercare di creare l'organismo l'immunità e ti prendi un'altra piccola malattia, secondo come succede c'è il rischio che ci muori, perché sta combattendo, quando ti prendi e ti fanno il vaccino c'è sempre questo problema qua. Siccome questo vaccino a settembre, come lo vogliono mettere loro, sarà già scomparso questo virus, per cui non servirà più, ti prendi l'influenza magari stagionale e c'è il rischio che ci rimani come pensi. Non è sempre programmato, è già passato, cioè una cosa, questo virus adesso ai primi caldi scompare, non lo sto dicendo io, lo stanno dicendo delle persone che ci sono in mezzo a queste cose. Questo è un virus un pochettino più virulento, nel senso un po' più grave, perché hanno detto tutti, se veniva curato in anticipo la persona, anziché aspetta, io ho un amico che ne è uscito la settimana scorsa dal coronavirus, lui era su a Ponte di Legno ed è venuto qua in Sardegna col coronavirus, si è fatto 25 giorni in ospedale, è uscito la settimana scorsa, venerdì, mi ha raccontato tanti particolari di certe cose, che purtroppo chi non c'è in mezzo non le sa queste cose. Noi sentiamo il telegiornale quello che ci racconta quell'imbecille che c'è al governo, che c'ha di quattro imbecilli insieme a lui che gli raccontano fesserie, senti i medici che ci vivono in mezzo al vaccino, e ti rivela in mezzo al vaccino, in mezzo al virus, e ti dicono cosa c'è. Ci sono tre fasi di questa malattia, la prima fase è assolutamente curabile in casa, come una normale infezione, con delle medicine adatte, la seconda fase è un po' più critica, la terza fase, quando arrivi alla terza fase sei già morto, se c'hai delle patologie di altre malattie, perché non ci possono fare niente, è talmente virulenta. Lui mi ha detto, ha visto le latte tutto quanto, è una polmonite bilaterale piena, cioè ti riempie completamente, ti infiamma completamente i polmoni, non è la classica polmonite unilaterale che ti fa una macchia, questo è da tutte le parti, ti infiamma tutto e non c'è niente da fare. Quando sei un po' anziano oppure che hai già avuto il vaccino per l'influenza, altre cose, l'organismo non reagisce più e sei morto. Il 50% degli anziani sono morti così, perché erano già con altre patologie. E guarda a caso, i giovani, i ragazzi e tutte le persone non ce n'è neanche uno, rarissimi ne hanno fatto, a meno che non avevano qualche altro problema più grave. Sono tante balle che stanno raccontando per cercare di spaventare la popolazione e costringerti a fare il vaccino, e ti costringeranno, l'hanno già detto, perché tu se vuoi entrare in certi uffici a lavorare, in certe aziende, in certi locali, se non c'è il vaccino, la certificazione, come in Cina, nella cosa, nel telefonino c'è il codice QR, prima di entrare te lo devi appoggiare e dicono sì, questo è vaccinato, può entrare, se no ti va ad entrare, oppure devi andare in continente, ti devi imbarcare in aereo e nave, non ti fanno entrare. Questo è il loro progetto. Però siccome la popolazione, qualcuno si sta muovendo, come ha fatto il presidente americano, vedi che le cose un po' cambieranno. Ha detto delle cose che sembrano stupide, però sono molto ma molto potenti, alle signore case farmaceutiche comandate in grande da quel grande Bill Gates, che è un più grande, lasciamo questo. Ma ci sono tante, sì, il prossimo ospedale del vaccino dovrà ragionare Roberto, e i vaccini hanno sempre fatto danno, tutti questi bambini autistici che ci sono anche in giro, molti dice che sono dovuti ai vaccini che fanno. Guarda Gianni, se parliamo di autismo, cacchio, c'ho un'amica mia, carissima amica, hanno rovinato il figlio con questo caso. Tutti i vaccini hanno degli effetti collaterali, ci sono vaccini efficaci che vanno bene, però ci sono tanti vaccini inutili, cioè di malattie che non esistono da, non dico da secoli, da 50 anni. Tu non ti puoi fare il vaccino per dire contro la peste o contro il tetano, che ormai non ci sono più, contro l'ebola, ce ne sono miliardi di virus. In Italia ci facciamo 12 vaccini, in Germania ne fanno 6 e in Francia ne fanno 8, cosa c'hanno in più di noi o in meno di noi? È tutta una balla di cose. Hanno fatto al Parlamento, la Camera dei Deputati, non stiamo parlando in strada, la Camera dei Deputati, una analista di laboratorio, gli hanno detto come consulente di analizzare i vaccini in Italia. Di tutti questi vaccini ne ha analizzato 4 in particolare, di questi 4 c'erano delle sostanze sconosciute, le ha detto controllate tutte le percentuali, del vaccino contro la rosolia, dove ci deve essere il virus della rosolia, non era esistente. In 2 vaccini c'era alluminio, l'alluminio è il metallo più tossico che possa esistere all'interno dell'organismo, è uno dei pochi metalli che non si può, che non si scioglie, per cui ti rimane all'interno, adesso ti crea dei cancri pericolosissimi, e lei ha detto questi 2 vaccini sono altamente tossici e cancerogeni, e noi li facciamo, e ha detto una cosa importante, un bambino sino a 6 mesi non ha ancora l'immunità, non ha gli anticorpi eccetera, e un vaccino è assolutamente inutile, noi iniettiamo i vaccini ai bambini appena nati, e qua ti dico tutto. Sì, ma è così, hanno scoperto anche i bambini che sono rimasti paralitici, ne ho visto di programmi alla televisione sul vaccino, infatti bisogna vedere però se ti, Robe, se ti obbligano a fare un vaccino, perché con la storia che tu puoi contagiare gli altri ti obbligano a fare. Allora Gianni ha dimostrato, questo professore, non ricercatori di questi ignoranti che hanno detto che prima non era niente, ti ricordi tutti questi luminari scienziati che hanno fatto brutte figure, che prima hanno detto delle cose e poi si sono smerdati uno con l'altro, questo professore che è all'ospedale, uno di questi dove sono tutte queste persone qua, ha detto se tu ti fai il vaccino è peggio della persona che non ha il vaccino, perché tu diventi più infetto di quelli che non ce l'ha, tu crei dei problemi a quelli che non hanno contratto il virus, tu che sei vaccinato, è ancora peggio, perché ci sono le manipolazioni, le trasformazioni del virus all'interno, e dice è ancora peggio, dice è peggio chi si fa il vaccino per le persone sane, non viceversa. Poi ognuno dice la sua, Roberta, e sa che si era detto che questo virus era partito prima, è partito dalla Cina, poi era partito dalla Germania, poi la stessa se sono americani che hanno fatto qualche casino per discriminare la Cina. assolutamente dimostrato che non è animale, non c'entra niente la cosa animale, l'hanno dimostrato, tra l'altro c'è la variante che abbiamo noi diversa da quella che c'è in Cina, detto dai ricercatori stessi, sono due cose diverse, cioè è un altro tipo di virus, con un'altra come si chiama, tipo di, non dico composizione, detto volgarmente composizione, perché si è modificato quel virus rispetto a cosa. Probabilmente può essere stato un cinese, un francese, un sussico, non c'entra niente, chi l'ha portato. Qua stiamo parlando dell'origine del virus, non c'entra niente origine animale, perché quello che è arrivato in Italia è completamente diverso da quello che c'era in Cina. Le conseguenze e le cose sono uguali, però il virus è completamente diverso. C'è da dire una cosa, questo signor Bill Gates con l'altro Fauci, che è di origine italiana, non so se avete sentito, quello lì nel 1987, se voi vi leggete l'intervista, io l'ho vista, non letta, l'ho vista, l'intervista che ha dato lui, ha detto che il mondo, ha detto tutto quello che è successo adesso, nel 2017, 3 anni fa, lui l'aveva già preventivato, perché è tutta una cosa organizzata e preparata. Loro vogliono avere il controllo delle persone, perché con questo vaccino iniettano delle sostanze che sono capaci, cioè che loro sono capaci di identificare cosa c'hai, cosa non c'hai, eccetera, eccetera. Con un esame del sangue loro sanno, tipo quei film che stanno facendo di fantascienza, sanno quello che hai, cosa è passato, eccetera, eccetera. Ti mettono delle sostanze tipo liquidi di contratto, cose del genere, loro riescono a sapere cosa c'hai. E questo è il problema grave. Il signor Bill Gates ha fatto migliaia e migliaia di morti in Africa, in India ha fatto migliaia di persone con la poliomielite, col vaccino causato da lui. La gente purtroppo non lo sa perché è troppo potente questo, e ha fatto delle cose allucinanti. Siccome Trump non è un macco, quando ha detto l'altro giorno iniettiamoli direttamente questi disinfettanti, questi agenti, l'hanno preso per scemo, lui l'ha fatta come battuta, assolutamente che moriranno tutti l'indomani, e come mai, visto che non volete che io lo inietti queste due sostanze, non mi ricordo come si chiamano, voi le avete messe all'interno dei vaccini, mudi e cagliari. C'è sempre l'indico, c'è tutte le cose, c'è l'indico, Roberto. Avanti Mario. Ehi, carissimo Roberto, e niente, adesso sarà un casino, per queste cose, speriamo di uscirne il prima possibile. E allora ci sarebbe da stare ore e ore parlando. Guarda, io sono arrabbiato per questa situazione, perché hanno creato un danno all'economia mondiale, e in questo caso l'Italia, noi eravamo già alla cacca e saremmo ancora peggio per colpa di questi cacchi di gentaglia che abbiamo. Avanti. Purtroppo loro non è lo scopo di infettare tutto il mondo, spaventare tutto il mondo in modo che sia costretto a farti il vaccino, per secondo loro tutelarti, invece non è così la musica. Il problema è che se non siamo tutti uniti, tutta la popolazione è unita, viene informata, perché di queste cose se ne parla ben poco e non è informata la popolazione, c'è una rivolta generale, loro stanno cercando di spaventare le persone, perché se voi vedete, è un film, voi vi guardate il film Il virus letale, l'altro pandemia che è nato l'altro giorno, guardatevi quel film e poi vi fate tutte le vostre considerazioni, poi uno può dire un complotto, guardatevi quei film lì e poi dice ma sta accadendo adesso. Vi ricordate all'inizio quando si diceva ma che non le fanno fare di vaccini, adesso stanno già iniziando a parlare di vaccini, te lo ricordi che entro marzo finiva tutto, dai riapriremo tutto, poi aprile, poi maggio, siamo già a maggio non è iniziato e ancora non c'è niente, è tutta una cosa pilotata, ma non dal governo italiano, come la tal e succube di altre cose più importanti. Io ho sentito delle telefonate di cose che hanno fatto vedere cose allucinanti, cacchio, basta una telefonata a questo cacchio di governo che abbiamo e si cagano sotto. Allora, c'è stata nel 1916 la famosa spagnola, non so se l'avete sentita, più o meno come cose tipo adesso, non c'erano le attrezzature di adesso, è durata 2 anni, come è arrivata è scomparsa, nessuno si è accorto di niente, non hanno mai capito da cosa era generata ed è come finita, e questa è la stessa cosa. Prima guerra mondiale, non seconda. Ok, chi è che stava chiamando avanti? Sono Giovanni Bracco. Allora, nella spagnola te lo dico io, la spagnola ho detto mio nonno e mia nonna. Mio nonno e mia nonna sono salvati dalla spagnola, tutti i figli e i parenti, con cose naturali, cioè vino e aglio. Allora, una testa d'aglio in 1 litro di vino, molti sono morti e loro sono salvati e non hanno fatto né vaccino né nulla. Con questo chiudo perché sto lavorando. Vai Robè. Dai, certo, ma io sono sicuro per le persone che non so. Allora, il vaccino per essere efficace devi mettere la persona in quarantena, non so se lo sapete, deve rimanere qua, non dico 40 giorni, ma almeno 3 settimane, deve rimanere chiuso e distante dalle altre persone, in modo che l'organismo reagisca, se parliamo di un vaccino efficace, effettivamente efficace, non manipolato, perché ne abbiamo vaccini tanti, molto importanti, che sono efficacissimi, studiati, anni e anni di studio, e devi stare 21 giorni, 3 settimane in quarantena, non devi avvicinare nessuno perché l'organismo sta lavorando, sta soffrendo, perché si crea un'infezione interna, si formano anticorpi. Se tu ti fai il vaccino di questo cavolo di cosa che stiamo dicendo, che tra l'altro il vaccino ancora, anche se lo stanno dicendo che sarà pronto, è impossibile perché ci vogliono anni prima di avere un vaccino, lo stanno facendo per statistiche e per cose, super computer stanno lavorando per cercare di manipolare le cose, i componenti per creare questo vaccino. Devi stare 21 giorni lontano da tutte le altre persone che ti possono anche contagiare un raffreddore, perché se tu ti prendi un altro virus, i virus ce ne sono miliardi, non milioni, miliardi nell'aria, e l'organismo non è abituato e non ha la forza di reagire, ci muori tu per colpa di quel coso, di quel vaccino che ti hanno fatto. Quello che ho detto io, lui ha fatto una provocazione, l'hanno preso per scemo, però è tutto calcolato, che Trump ci avrà tanti difetti ma non è uno scemo, ha detto iniettiamoli del disinfettante diretto, così ammattiamo, l'hanno preso per pazzo. L'indomani ha detto, e come mai non volete iniettare queste due sostanze nell'organismo quando nel vostro vaccino sono presenti? Non sapevano più cosa dire, li ha smerdati davanti al mondo. Infatti questa è una cosa molto ma molto importante, soprattutto quell'industria farmaceutica che produce questo vaccino, che sarebbe la Johnson & Johnson americana, che è la famosa industria che produceva il famoso borotalco, che dopo 100 anni abbiamo scoperto che era assolutamente cancerogeno, e abbiamo detto tutto, gli hanno dato la possibilità di costruire questo vaccino, di metterlo, di distribuirlo nel mondo, e abbiamo detto tutto. Cioè Johnson & Johnson è quello che si usava per i bambini, era cancerogeno? Assolutamente cancerogeno, e se cercate su internet voi vedete borotalco che l'ha fatto la cosa, assolutamente cancerogeno. Poi ci sono delle persone tolleranti, delle persone che non lo... però è una sostanza cancerogena, come quando si prendevano certi tipi di acque che scrivevano radioattive, le vantavano, io parlo all'inizio del Novecento, che le decantavano tanto, perché non conoscevano ancora l'energia nucleare, non sapevano che cosa era, e mettevano acqua radioattiva, la prendevano da fonti dove c'erano dell'uranio, cosa del genere, non sai quanta gente è morta, purtroppo non lo sapeva. L'informazione è importante. E poi soprattutto l'informazione che sia giusta, a noi ci stanno bombardando di balle, adesso questo professore che ha visto che col plasma delle persone infettate ci sono dei miglioramenti esageratamente validi, sono entrati subito in asso e gli hanno sequestrato tutto, come faceva quello di Bella, che l'hanno fatto morire, si può dire, la cura di Bella adesso che è morta hanno detto che è efficace, dopo che ne hanno detto tutti i colori, le industrie farmaceutiche, era un fantastico eccetera. Purtroppo il mondo funziona così, ci sono delle persone al di sopra di tutti che decidono cosa fare, noi siamo i burattini comandati da questi personaggi. Tornando sul borotalco, era solo quello Johnson o tutti i tipi di borotalco sono cancerogeni? noi stiamo parlando da Johnson, poi ci saranno delle ditte come l'aspirina, l'aspirina è prodotta dalla Bayer, poi ci sono tachipirina, cibalgina, eccetera, ci hanno il composto, gli danno la possibilità di metterlo in commercio, e poi non so se le altre ditte che producono il talco sia cancerogeno, comunque voi cercate Johnson e Johnson, la scatola verde, io parlo quando ero bambino, non so se ve la ricordate, facevano le pubblicità alla televisione, quello lì è assolutamente cancerogeno. È quello che si usava sui neonati, dai. Ma lo sai perché? Perché sono un abitudinario, dopo che mi faccio il bagno mi cospalgo tutto di volo talco, non vuol mica che fosse cancerogeno. Oh Gianni, io ti sto dicendo, viene considerata la sostanza cancerogena, però magari l'organismo tuo è tollerante, perché ci sono come quelli che sono intolleranti ai pullini, intolleranti alle uova, alla crema, a quello, a quell'altro, però hanno dimostrato scientificamente che le sostanze che compongono questa roba qua sono cancerogene, ci sono delle sostanze cancerogene, l'uso prolungato può creare dei problemi alla pelle, dei cancri alla pelle, chi non è adatto a resistere a quel tipo di sostanza, ma ce ne sono tantissime, dico, adesso noi ci stiamo combattendo contro il 5G, se mi metto a raccontare del 5G un sacco di gente dice, ma cacca là perché stanno dicendo queste fesserie qua, non lo sapete voi la storia del 5G? Dice che ha ammazzato un po' di uccidi dove l'hanno messo. Ma cosa cacca stanno dicendo? La gente è ignorante, i batteri hanno sentito anche che questo coronavirus, il 5G ha generato il coronavirus, cos'è che io rimango a bocca aperta? Il 5G è una frequenza leggermente diversa da quella del 4G, tutte le onde elettromagnetiche, ricordatevi, sono dannose all'organismo, però tutto naturalmente in base all'esposizione e alla quantità di energia che li butti alla persona, perché se tu vai a misurare, allora noi in Italia abbiamo il campo elettromagnetico, i limiti del campo elettromagnetico di un ponte ripetitore per i cellulari di 6 millivolt per metro, e negli Stati Uniti è 60, in Svizzera 58, in Germania pare siano intorno ai 50, noi abbiamo le cose più restrittive del mondo, che è presente, diciamo, 10 volte inferiore agli Stati Uniti come intensità di campo elettrico, la potenza che utilizzano questi ripetitori, siccome lavorano frequenze nelle microonde, sono molto limitate, per cui devono avere, non hanno portata superiore ai 500 metri, e loro teoricamente dicono dobbiamo arrivare entro i 300 metri tra un ponte all'altro, li metteranno nei pali della luce, eccetera. Il 4G lavora potente anche di 100 watt, qua stiamo parlando da 1 a 10 watt di potenza, con un campo elettrico che non deve superare i 6 microvolt, e ne stanno facendo la guerra mondiale, le frequenze più sali e più sono dannose, però tu ricordati sempre, io ho un apparecchio che misura i campi elettromagnetici, a casa vostra se avete il wifi, la linea wifi, e misuri l'intensità di campo magnetico che hai, di campo elettrico, non campo magnetico, campo elettrico che hai dentro casa è 10 volte superiore a quello che potete avere al di fuori di casa dove c'è un ponte di questi 5G, stanno dicendo tante di quelle fesserie che la gente rimane, vanno a buttare nei punti ripetitori di questi confini, sono 5G e non li hanno ancora piazzati, sei presente che stanno ancora cablando Milano, le principali città, Napoli eccetera, non è ancora attivo il sistema 5G, non ci sono ancora, a parte un paio di telefonini, stanno riempendo di balle la gente, che il 5G, certo tutto è cancerogeno, il forno a microonde che ha 2000 watt, ne hai idea l'energia che genera, 2000 watt concentrati in cosa, ti sciolgono i cibi e vi dico tutto, poi stiamo parlando di potenza, è talmente basse a una certa altezza, anche il coso, l'energia solare è cancerogena, se stai sotto il sole 10 ore a punta di mezzodì, qualunque cosa in quantità esorbitante, qua stiamo parlando di quantità limitate, poi senti che ti raccontano tutte le balle, certo che fa, che il topo ci stanno, fanno un topo, lo mettono in gabbia, lo tengono per 24 ore irradiato di coso, di energia, di onde elettromagnetiche, è normale che qualunque cosa, il cellulare, la potenza di un cellulare attaccato all'orecchio sono 500 milliwatt, fate un conto, rapportato, lo sai quanto sarebbe di intensità di campo elettrico, una cosa spaventosa, prova a stare un'ora attaccato all'orecchio col cellulare e poi vi rendete conto cosa succede, solo che il 5G è ormai diventata una cosa cattiva. Ho mandato via tutti, dai, non ho ascoltato nessuno. Scusa, stavo attaccando il telefono a caricare, a proposito di onde. Sì, a me mi hanno fatto anche la proposta da Vodafone per passare a 5G eccetera eccetera, 18 euro al mese, ce ne è carica a 20, sì ne metto 20, però ne metto 20 per comodità, perché io devo metterne 10, se me ne avanzano 10 l'altro mese non vado a caricarlo, non è che devo stare sempre a caricare il telefono, capito? faccio per comodità mia, qua sono 18 euro al mese, non va bene. Me l'ho trafatto 50 volte, non so quante volte mi hanno chiamato, alla fine ho detto ascoltate, avete capito, adesso cambio direttamente non va bene, dai, che ti rompono le scatole tutte le ore, sempre quando stai mangiando, quando stai riposando. Non hanno capito, ma poi ci scusi, arrivederci, vabbè, mi hanno trafatto roba, ma in un giorno mi ha trafatto 4-5 volte. Ma non prenderà tutte le parti, fate quello. Che cosa? Di cosa stai parlando? Iliad c'ha la copertura di Windy 3, è uno dei peggiori come copertura. Numero uno di copertura è Vodafone, leggermente dietro c'è Coso, la team. La Vodafone poi ha fatto io come Coso, come per combattere Iliad, e c'ha gli stessi punti di riferimento, e poi la team ha fatto per combattere Iliad, ha fatto Kena si chiama. Come copertura assoluta è superiore, qua in Sardegna, di poco ma è superiore Vodafone. In certi punti funziona anche nelle gallerie, se vai a zona di Oliata, San Teodoro eccetera, è l'unico che ci sono dei punti. Poi senza andare molto lontano andate all'Argentiera, vi mettete in un punto e facciamo le prove team e Vodafone, di lì prende solo Vodafone. Se te ne vai a Bauni non prende niente, né uno né l'altro, però come copertura Vodafone leggermente meglio, e c'ha una penetrazione, c'ha punti di ripetizione superiori, le cellule sono maggiori. Ok, e già nel 5G non comprare niente, perché ancora telefonini ce ne sono solo 3 che li producono, e la rete ancora in Sardegna se ne parlerà tra un paio di anni, stanno facendo cablando Milano, Roma, Napoli, Palermo, Bari e Bologna, le uniche città che sono in cablaggio, gli altri quando sarà se ne parlerà. E prova a scendere giù dove c'è la spiaggia più avanti dopo Porto Palmas e prova a vedere se prendi qualcosa, oppure ti dico dove andare a Coso, a Santa Maria Coghinas, te ne vai sotto il Vigilio del Fuoco di Coso, nella caserma del Vigilio del Fuoco sotto, e ti dico che non prende. C'ha mio cognato, c'ha Windy, ne ha 2 di cellulari, quando entra sotto nel garage non prende Windy, ma è assolutamente uno dei peggiori come copertura. Adesso si sono uniti Windy 3, hanno un po' migliorato, però erano in assoluto 3 peggiori. Poi naturalmente uno se va nelle zone Coso abbastanza coperte, certo che prende. Se tu ti sposti appena di Olbia è finito, non prendi più niente. Vodafone è ladra, la peggiore in assoluto come costi e come cose, però c'ha di buono la copertura, a me mi interessa la copertura, per cui devo rimanere con quelli lì. E poi c'ho la trascheda di io, che è sempre Vodafone, per un altro numero, quello lì. Però solo per quello, se no Vodafone vuole abbandonato da tutti, perché è una truffa. Vai a fare una ricarica da 10, per avere 10 devi spenderne 13, se ne vuoi fare a 5 devi spendere 9, è una grandissima fottitura. Però quando c'è la copertura, come a me mi interessa avere copertura, quando poi vai all'estero e ti connetti subito, non hai nessun problema, è solo Vodafone. Team non esiste, gli altri ancora più. Dai, adesso siccome abbiamo parlato troppo, vediamo chi è rimasto. Claudio, ci sei ancora? Roberto, sì, un attimo, Mario, aspetta, la chiamando Mario, avanti Mario. Sì, scusami Roberto, niente, pensavo che non stava parlando nessuno, perché a me qua come segnale non mi dà niente quando parlano i tuoi colleghi, capito? Ah ok, dai, non c'è problema, c'era prima Riccardino e poi c'era Claudio che è arrivato, vediamo se è rimasto Bracco. Giovanni, avanti. Bracco sta lavorando. Poi chi c'è? sono io. No, c'era un altro che ha parlato, chi avanti tu, forse una disattenzione da parte mia. Comunque la cellulare Vodafone, io ce l'ho da sempre, da quando si chiamava Omnitel, è una grande fottitura, perché io ho una scheda particolare internazionale, non è diciamo una scheda normale, pago un po' di meno, mi permette di fare certe cose, ma è un furto, perché poi quando va a ricaricare è sempre un furto. Lo sconsiglio per chi vuole abbassare il prezzo, però chi ha necessità di spostarsi è il numero uno. E poi c'è Timber, che adesso ha fatto anche Kena, che costa una fesseria, ti dà 70 giga a 5,99 al mese, chiamate e telefonate e sms limit. Adesso si chiama Wind 3, si sono uniti. 3 era in assoluto la peggiore, insieme a Fastweb e Cataweb, erano i peggiori. Adesso si sono uniti, hanno un po' migliorato la copertura con Wind, però stiamo parlando di cose molto molto limitate. Non c'è una grossa copertura, ma nelle zone, diciamo, dentro città, grandi abitati sì, però se ti sposti appena, Ilia della stessa cosa, sfrutta i punti di Wind 3. Io te lo dico perché mi sposto, vado anche con altri telefonini e con altre persone, e ci sono dei punti che non prende neanche Vodafone, sono molto pochi, però ci sono altri punti diciamo abbastanza importanti che un po' ti magaccia, ma quelle proprio Ilia del coso zero assoluto, neanche niente. Poi non parliamo di rete 4G, però neanche a parlare, perché magari riesci a telefonare però non hai internet. No, io non sto parlando di rete per casa, io sto parlando di in movimento, sto parlando del 4G utilizzandolo in movimento, non in casa è un'altra cosa. Alla Vodafone hanno fatto tanti di quei raggiri che neanche ti immagini, prima dovevano darti un mese di telefonate, da un mese sono diventati 28 giorni, lo Stato, l'associazione del coso, l'antitrust le ha denunciate all'associazione dei consumatori che era un abuso, allora hanno detto va bene, non ti do più 28 giorni, ti do 30 giorni, come prima però ti aggiungo un euro, ogni ricarica che fai dovevi fare un euro, anziché 10 ti costava un euro in più, 11 euro di ricarica, 10 di telefonata. Adesso da 10 sono arrivati a 13, è una grande fottitura, però li stanno facendo la guerra quelli Iliad, è iniziato Iliad, adesso ce ne sono altri, c'è Kena di Team, e piano piano, per cui loro si sono dovuti fare un'altra rete, un altro nome per cercare di contrattare, per prendere quei clienti. Infatti tutti i clienti Iliad, ex Iliad o Postel, loro ti fanno un prezzo stracciato di 7,99 euro, ti hanno 50 giga, telefonate, cose illimitate, per cercare di prendere i clienti, come ha fatto la Kena, solo per i clienti Iliad e coso, il posto mobile, ti fanno un prezzo di 4,99, se no costa 7,99. Io sono d'accordo con te, ma anche con Roberto, che prende da tutte le parti, le cose buone si pagano, c'è poco da fare, ti fanno pagare perché sanno di essere i migliori e niente. Io ci ho vola per lo stesso, dai, però ti fanno pagare anche per vedere quanto c'hai, se vuoi vedere quanto c'hai per dire di credito, fai il numero, ti fanno pagare un tanto a minuto, se non è che c'hai mai vola. Un euro ti costa sapere il credito, 414, è una grande, ti sto dicendo, è assurdo. Io quando ho cambiato il numero di telefono di Vodafone, che ho preso questa cosa nuova, siccome non ho gli sms, io non ne voglio, non mi interessa, no? Ho mandato a tutti gli amici in rubrica, mi pare 130, non mi ricordo quanto ne avevo, ho mandato il messaggio dicendo di coso, 59 euro mi è costato mandare quei messaggi a ognuno che avevo cambiato il numero. Me ne ha mangiato tutto il credito, ho detto non è possibile, cosa è successo qua? Vado a telefonare, non c'era più credito. Allora ho chiamato, no, guardi, lei ha mandato gli sms, ogni sms le costava 0,59, una cosa del genere. Stiamo parlando di vecchie mille lire per fare un sms, ti rendi conto? Un furto. Io non mando mai sms perché c'ho WhatsApp e quasi tutti i miei contatti hanno WhatsApp o Messenger, eccetera. Cacchio, mi hanno tolto 59 euro solo per mandare gli sms. E avvisare tutti che non era più il mio numero. Non è possibile, anche io uso WhatsApp, o Messenger, o WhatsApp, vado sempre così, se no gli attingo. Ah, poi c'è un'altra nuova, che cazzo, chi non va pure magari non lo sa. Tu quando vai all'estero ti connetti con Vodafone. Vodafone, dove sono andato io, cioè, la connessione esiste Vodafone, per dire, non esiste TIM, non esistono altri marchi. Quando arrivi, appena accendi il cellulare, dal momento che accendi la mattina, ogni giorno ti prende 3 euro, puoi fare tutte le telefonate che vuoi, non usa il roaming perché questa è una scheda internazionale, ogni giorno ti prende 3 euro, come tu accendi il telefono, 3 euro, la prima chiamata che ti fanno, tu non chiami, ti chiamano dall'Italia verso questo paese, tu paghi 3 euro al giorno, cioè solo senza chiamare. Chiamate Erika. No, vabbè, a noi in officina ci chiamano per tutto, siamo una ditta produttrice di vini, stiamo organizzando una festa di teatro, stiamo facendo quello, siamo la rivista del poliziotto, rivista del carabiniere, rivista del nostro Google, ogni giorno c'è una nuova che mi chiama, poi dobbiamo fare questo tipo di attività, se lei vuole dare un contributo, a ogni ora lì mi chiamano, cellulare, infatti ogni tanto mi fanno arrabbiare, perché ho detto assolutamente non mi chiamate a questo numero, un numero privato e non voglio, cancellate questo, io li faccio neri quando mi chiama, ma noi non c'entriamo niente, non vi attardate più a telefonare, se no vi denuncio. Dai, già. Ma adesso te ne dico una, un giorno mi hanno telefonato 3 o 4 volte e l'ultima volta gli ho detto non mi interessa, ma non avete capito che non mi interessa, è già la quarta volta che chiamate, poi si è ripreso il telefono, mi ha richiamato questo qua, era di quelli tipo esteri, non era italiano, albanese, qualcosa del genere, e ha detto che io ero stato scortese, che lui stava lavorando, che non dovevo parlare così e tutto quell'altro, ho detto ascolti. Lei si immagini che a me oggi è la quarta volta che mi chiamano per la stessa cosa, io adesso stavo riposando e lei mi ha svegliato, è normale che io risponda così, io non ce l'ho con voi, però cercate anche di capire chi riceve le telefonate. Non lo so, purtroppo quelli gli danno una percentuale ogni contratto che fanno, quando raggiungono a fare 10 contratti non so quanto gli danno, devono fare 10 attivazioni, purtroppo lavoro loro. E io li blocco già in partenza quando mi chiamano, guardi abbiamo fatto appena il cambio di gestore la settimana scorsa, non mi interessa, mi dispiace, ma chiudo, e chiudono subito. No, io dico sempre che sto lavorando, che non posso staccare, eccetera, eccetera. Alla fine poi ti rompono le scatole, robe, se ti svegliano oppure stai mangiando, ti fanno alzare la tavola, cavolo, per rispondere a loro, e poi sono sempre queste cagate. A me è sembrato Luca, tu sei? No, Roberto, io stavo seguendo il discorso. Gianni, sarà lo stesso che è capitato a me, solo che a me il giorno è partito l'embolo e l'ho cantato malamente. Questo è richiamato 2 volte a dirmi che lui stava lavorando, che ero ignorante, siccome io l'ho apostrofato male, dicendo ma lei chi è, che voce ha, da che nazionalità, di che nazionalità è, da dove mi sta chiamando, insomma è partito l'embolo quella volta. Guarda, sono veramente invadenti, dai Robè, sono esclusivo anche all'ascolto e mi sto mezzo dormendo. Ciao Robè, vai, riprendete. Addormentata. Marco da Capignara, non è più da Capignara. Ehi, vediamo ancora, adesso facciamo riprendere a Claudio, se no si addormenta anche lui. Avanti Claudio, che poi farà girare per Mario Mandarino. Avanti Claudio, non ti ascolta Mario, vai Mario. Ehi Robert, già ti sto ascoltando, però adesso ti saluto perché tanto ho fame. Poi già sto parlando anche poco, vi lascio ai vostri discorsi. Poi se ci sei probabile che accendo dopo e magari ci diamo la buonanotte, se ci sei. Va bene, dai, l'occasione anche io, vado anche io, dai, che domani si trabacca. Ok, ciao Mario, ben sentito, buona cena se la devi fare. Ciao Claudio, ciao Gianni, ciao Riccardino, ciao Marco e eventuali amici qua in ascolto, che penso ce ne siano tantissimi oggi, che c'hanno argomenti un pochettino piccanti. Dai, ciao ciao a tutti, buonanotte. Ciao Robo, ciao. È stato un piacere, avanti. Ciao Mario, anche a te, buonanotte. Avanti, Chiodarugita, avanti, Riccardi. Sono le 11:15. scappa, scappa là, e vabbè c'è umidità, di dai, vai, vai, tanto ha chiesto il cliente, adesso non c'è rimasto più nessuno, ciao Marco, un congolo anche a te che c'è all'ascolto, e ci sentiamo, dai, buonanotte a tutti, ciao Riccardino, ciao anche da Ruggerito, io chiudo, tanto non sta entrando nessuno e quindi me ne vado a letto. Buonanotte Riccardino e buonanotte anche da Lucia. Ciao ciao. Ciao ciao. Capri 2, Gianni Capri 2. Ma così magari va incontro a corso, ti metto l'avvocato, questo e quell'altro. Mi dispiace, dai, adesso sta a vita. Vabbè. Me le sta parlando, ma continua ad andarmene via, dai. E qua c'è uno che ti mette l'accordante e non mi fa capire cosa dice. Chi è che sta accordando e non si accorge che stanno parlando? Ehi, dai, intanto è acceso qua, ma sono nella prestanza, dai. E forse qualcuno stava accordando, aveva il volume a zero, o era un portante, non lo so. Sentiva come un ronzio, come se accordasse valvole, dai. Ehi, ciao Capri, guarda, queste aziende telefoniche sono tutte incentrate sul profitto e gli interessa solo quello alla fine, quindi. Dai, sentiamo, buonanotte, ciao già, ciao a tutti. Buonanotte, ciao, sto andando via anch'io, dai. Buonanotte, Capri 2, ci sentiamo, dai. Alle prossime. Abba, allo passo. Ciao Marco. Ehi, di nuovo la fa, ma la passavo? Non è parlato quando stava, non ci ho fatto caso. Ehi, vabbè, dai, buonanotte, tanto è tardi. Ciao a tutti, ciao. Tu arrivi 9:25. Buona snor.